24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione il vertice a Strasburgo tra Italia, Francia e Germania, il ripetuto no della cancelliera tedesca agli Eurobond, le reazioni della borsa, ma anche una sentenza della Corte Europea di Giustizia sui filtri anti-download. Partiamo allora da Strasburgo, pieno sostegno all'euro, dibattito sugli Eurobond, apertura di credito all'Italia e alle sue riforme. Questi i punti centrali emersi dall'incontro a tre tra il premier italiano Mario Monti, il presidente francese Nicolas Sarkozy e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il servizio. Ci parliamo ogni giorno, veniamo da culture e storie diverse, ma il nostro impegno è di convergere verso una posizione comune. È un Nicolas Sarkozy realista ma profondamente indispettito, quello che al termine del vertice a tre di Strasburgo con la cancelliera Angela Merkel e il premier italiano Mario Monti spiega che la situazione è molto grave, richiede il massimo di coesione tra i paesi motore dell'integrazione europea, Francia e Germania, ora anche l'Italia. E quindi, aggiunge, è inutile intestardirsi su posizioni che non portano a nulla, come quella francese sulle modifiche allo statuto della BCE, meglio fare qualche passo indietro. Così la Francia, che forse si aspettava un maggiore sostegno da parte italiana, lascia cadere il pressing sulla Banca Centrale Europea. È stato concordato, precisa Sarkozy, di rispettare l'indipendenza della BCE, ma la Merkel rincara la dose. Forse non avete sentito bene, forse ci sono stati problemi di traduzione, dice rivolta ai giornalisti. Sarkozy ha chiarito che la BCE è indipendente. La Merkel aggiunge che comunque, ove vi fossero stati dubbi, la riforma dei trattati europei al centro del Consiglio europeo del 9 dicembre, e su cui concordano anche Francia e Italia, riguarda le regole di governance economica, ossia la gestione dei conti pubblici nazionali, e non certo il mandato della BCE, che resta quindi quello di garantire stabilità dei prezzi, come vuole sia la BCE che Berlino. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Strasburgo. Impressionanti le sue misure strutturali. Con queste parole Angela Merkel apre al nuovo esecutivo italiano che incassa l'ok di Francia e Germania per un prossimo incontro proprio a Roma. E nel suo primo vertice in Europa da premier, Mario Monti rassicura sugli impegni dell'Italia innanzitutto per il pareggio di bilancio. Sentiamo. Stile British, rassicurazione all'Europa e ai mercati. Il premier Mario Monti affronta il primo trilaterale a Strasburgo, promette che l'Italia farà di tutto per risanare il debito. In primo luogo il governo intende procedere verso il pareggio di bilancio. L'interesse che l'Italia in primo luogo ha di perseguire in modo rigoroso gli obiettivi di consolidamento della finanza pubblica, in modo rigoroso, entro termini serrati, confermando l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. Divergono da quelle della cancelliera Angela Merkel le opinioni del professore sugli Eurobond. In una solida unione fiscale, dice Monti, anche gli stability bond potrebbero dare un contributo. Ma intanto la concentrazione è su quello che deve fare l'Italia. Noi intendiamo fare il nostro compito a casa, intendiamo anche dare il nostro contributo per la soluzione dei problemi comuni. Poi Monti rientra subito a Palazzo Chigi, a Roma è aperta ancora la partita sul completamento di governo, una squadra snella, al massimo 30 tra viceministri e sottosegretari, e Monti incontra anche Gianni Letta. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E rimbalza subito sui mercati europei il nuovo no della cancelliera tedesca agli Eurobond, così le piazze del vecchio continente chiudono un'altra giornata in prevalenza col segno meno. Seduta negativa per le borse europee che hanno risentito in particolare di tre fattori: il risultato deludente dell'asta dei titoli di Stato tedeschi, i nuovi segnali di rallentamento dell'economia cinese e i rischi sul declassamento del debito francese. La piazza peggiore è stata Milano, che ha ceduto il 2,59%, registrando un calo dell'8,6% dalla chiusura di venerdì. In netta flessione i titoli finanziari, con Mediobanca e Mediolanum in calo di quasi l'8%. I due titoli in 5 sedute hanno mostrato un ribasso rispettivamente del 21 e del 16,7%. Male tutto il comparto bancario. Gli analisti di HSBC hanno tagliato le stime di utile per azione delle banche italiane per il biennio 2011-2012 sulle prospettive di una recessione dell'economia. Nella galassia Agnelli Fiat è scivolata del 5%, mentre ha perso meno dell'indice Fiat Industrial, meno 0,93%, grazie ai conti positivi pubblicati dall'americana Deere. Ha tenuto Exor, meno 0,36%, spinta dall'incremento del rating da negativo a stabile da parte di S&P. Livia Zancanera da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Continuiamo a parlare di finanza con una novità che riguarda le banche. La Commissione europea infatti si è rivolta alla Corte di Giustizia per chiedere che imponga all'Italia una multa da quasi 97.000 euro al giorno finché non si adeguerà alla direttiva sui requisiti patrimoniali e sulla politica di bonus degli istituti di credito. L'Italia, secondo quanto si apprende, è l'unico paese che non ha ancora recepito alcun aspetto della direttiva. E siamo alla cronaca. Scontri e manifestazioni tra Francia e Germania fermano il treno Castor con i rifiuti radioattivi trattati dalla francese Areva. Dopo i disordini e gli arresti di 16 manifestanti, il convoglio potrebbe prolungare per ore la sua sosta a Remilly-Mosella e si studia una strada alternativa, forse via Strasburgo o Forbach. Trasporti paralizzati, servizi fermi, il Portogallo ha vissuto il suo più grande sciopero generale. Per l'intera giornata il paese è stato di fatto bloccato dall'agitazione proclamata contro i tagli richiesti da Europa e Fondo Monetario in cambio del piano di aiuti da 78 miliardi di euro. Con la cronaca torniamo in Italia col maltempo che ha provocato la morte di altre 3 persone per delle frane in Sicilia. Il ritardo nella prevenzione del rischio idrogeologico nel bel paese è enorme. Nel 1998 si stimava che fossero necessari 40 miliardi per ridurre i pericoli, ma nonostante questo negli ultimi 11 anni ne sono stati spesi solo 3 per la sicurezza. Fronteggiare le emergenze invece ci è costato tra i 2 e i 3,5 miliardi l'anno. In un altro paese europeo invece, in Olanda, dopo l'alluvione del 1953 che uccise 2000 persone, si è lavorato costantemente alla difesa del territorio. Laura Bettini ha intervistato Wim Kalkon, il commissario di governo del programma Delta per la protezione del paese dalle acque. I cambiamenti climatici sono un problema per tutti, e in particolare in Olanda. Abbiamo ovviamente le politiche di mitigazione, che sono le politiche europee, ma abbiamo anche le nostre azioni. L'Olanda è in gran parte un delta, il 60% del nostro paese è a rischio esondazione, quindi dobbiamo proteggerci molto bene. Per mettere in sicurezza il vostro paese avete bisogno ovviamente di monitoraggi e continui investimenti. Da dove arrivano i finanziamenti? Il governo si è dotato di un Delta Act e in questo atto è previsto un fondo per finanziare le azioni da intraprendere. Questo fondo è alimentato dallo Stato con 1 miliardo di euro all'anno per le misure che dobbiamo intraprendere per difenderci da mare e fiumi. Sono soldi dei contribuenti ad essere stanziati, ma questo è un settore vitale per il nostro paese. L'Europa e gli Stati Uniti contestano la condanna dell'attivista bielorusso Ales Beliatsky, presidente dell'ONG Viasna e figura centrale nella lotta per il rispetto dei diritti nella Repubblica ex sovietica. È stato condannato da un tribunale di Minsk a 4 anni e mezzo di carcere e alla confisca dei beni per frode fiscale, ma per l'Europa si tratta di un verdetto politico e si confida in una revisione in appello. Download, internet e filtri, una sentenza della Corte di Giustizia europea impartisce le direttive. Chi voleva fare diventare gli internet service provider degli sceriffi della rete è rimasto deluso. È una sentenza netta quella con la quale la Corte di Giustizia europea stabilisce che nessun giudice nazionale può imporre alle società che forniscono accesso ad internet di applicare filtri per prevenire il download di contenuti illegali. Una decisione accolta con soddisfazione dalle società di telecomunicazioni, come spiega Innocenzo Genna, membro del Consiglio dell'Associazione Europea degli Internet Service Provider. Anche perché chiarisce la posizione degli internet service provider, che erano ingiustamente parti coinvolte in questo tipo di processo, perché gli internet service provider non sono né detentori di diritti d'autore né pirati, cioè sono semplicemente mezzi, sono quelli che forniscono le piattaforme o i livelli di comunicazione per la trasmissione dei dati. Scambiare file illegali su internet rimane certo un reato, ma sarà più difficile per i detentori dei diritti intercettare il traffico illecito in rete. La sentenza avrà poi un impatto su come l'Unione Europea regolamenterà il settore nei prossimi mesi. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore. 43 anni, orecchino, capelli lunghi e ora il titolo di miglior ministro dell'economia di tutta Europa. Per il Financial Times è lo svedese Anders Borg, il numero uno quest'anno della tradizionale classifica dei titolari dei dicasteri finanziari. Il merito, secondo il quotidiano, aver rafforzato le banche, creato lavoro e ottenuto fiducia popolare. Gli ultimi due posti della classifica sono per il greco Venizelos, ultimo, e per l'italiano Giulio Tremonti. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.